Con Maria Paola Canepa per parlare della terza edizione di In Corto al Centro Culturale Artemia o Artemia, io ancora non mi abito. Artemia. Dal 23 al 26, ben ritrovata, cara. Ciao Federico, buongiorno a tutti, grazie di questa telefonata, grazie e vi aspetto tutti perché sì, parte la terza edizione di questa festa meravigliosa, perché è una festa, sono 12 corti in scena giovedì, venerdì e sabato ci sarà anche la premiazione, il voto del pubblico è fondamentale, quindi oltre a vedere degli spettacoli meravigliosi abbiamo bisogno di voi questa volta. Senti, allora raccontiamo In Corto, cos'è In Corto? Allora, In Corto teatrale è un festival, come la parola lo dice, di cortometraggi teatrali. Sì. Questo festival è un festival al quale si accede tramite bando, noi insieme a Giancarlo Moretti, che è l'altro direttore artistico della rassegna, tutti gli anni, ormai è la terza edizione, chiediamo a artisti di Roma e provincia di Roma di inviarci i propri lavori per partecipare a questa rassegna, e scegliamo tra quelli che i lavori che ci inviano, scegliamo i migliori e i più diversi, perché l'idea è vedere un panorama completamente diverso di tutto quello che c'è in giro oggi e tutta questa creatività che galleggia nell'aria oggi. E si fanno queste tre serate dove, come ti dicevo, vanno in scena 4 corti ogni sera, c'è una giuria tecnica dove c'è la meravigliosa Jorgelina De Petri, Armando Pizzuti, Andrea Alessio Cavarretta, Giovanni Palmieri e me, questa volta mi tocca essere il capo della giuria, e si sceglie il miglior spettacolo, la miglior attrice, il miglior attore, e c'è un premio speciale del pubblico che è molto importante. Bene. Lo spettacolo che vincerà il primo premio, credo che sia una bella cosa, perché il premio è molto originale, vince in un tempo come oggi dove è già difficile portare la gente a teatro e lavorare, chi lavora con tanta passione, vabbè, il premio principale è la possibilità di tornare da noi al Centro Culturale Artemia con un lavoro integrale di normale durata, dove gli artisti hanno la maggior parte della percentuale di guadagno dell'incasso della serata per loro, quindi, e di solito si prevede un bel sold out, perché già chi li ha votati e tutto il pubblico del festival normalmente torna a vederli, perché è un po' il loro beniamino. Allora, questo è tutto. Questo, diciamo, è tutto. Allora, Maria Paola, raccontiamo anche dove si svolgerà tutto. Sì, il Centro Culturale Artemia si trova in via Milcare Cucchini 38, è a Roma, tra la zona Monteverde, Portuense e la testa del Forlanini. Potete vedere tutti i dettagli sul nostro sito, che è www.centroculturaleartemia.org, e lì c'è pure la scaletta con tutti i nomi di tutti i corti che andranno in scena e in che date. Perfetto. E grazie mille per questa possibilità di diffondere la nostra cultura, il nostro lavoro anche su questo meraviglioso programma. Grazie Federico. Grazie a te Maria Paola. Allora ti faccio una proposta, senti qua. L'idea mi è venuta adesso così all'improvviso, visto che siamo alla terza edizione, il lavoro vincitore di questa e quelli che hanno vinto le scorse due edizioni potremmo, se sono adatti alla radio, portarli qui. Che ne dici? Oh, ma meraviglioso, grazie, assolutamente sì. Ci pensi tu allora? Assolutamente sì. Va bene. Assolutamente sì. Ok. Grazie mille a tutti voi, veramente. È un onore. Grazie. Bene. Allora aspetto tue notizie. Grazie. Ok. Allora ci vediamo presto. A presto. Ok, a presto. Un bacione grande. Grazie a tutti. Ciao Maria Paola. Ciao.